725. Siroppo di ribes. Questo frutto, contenendo in sé molto glutine, richiede una lunga fermentazione, tanto che se sogliete dello zucchero nel succo di ribes, appena spremuto, e lo mettete al fuoco, otterrete non un siroppo, ma una gelatina. Disfate il ribes nei suoi grappolini come fareste ammostando l'uva e lasciatelo in luogo fresco entro un vaso di terra o di legno. Quando avrà cominciato a fermentare, il che può avvenire anche dopo 3 o 4 giorni, affondatene il cappello e rimestatelo con un mestolo 2 volte al giorno, continuando questa operazione finché avrà cessato di alzare. Poi passatelo per canovaccio a poco per volta, strizzandolo bene con le mani, se non avete uno strettoio, e passate il succo spremuto da un filtro anche 2 o 3 volte più se occorre, per ottenere un liquido limpidissimo. Ponetelo quindi al fuoco e quando comincia ad entrare in bollore, versate lo zucchero e l'acido citrico nelle seguenti proporzioni: liquido chilogrammi 3, zucchero in polvere bianchissimo chilogrammi 4, acido citrico grammi 30. Girate continuamente il mestolo onde lo zucchero non si attacchi, fatelo bollire forte per 2 o 3 minuti, assaggiatelo per aggiungere altro acido citrico se occorre. E quando è ghiaccio, imbottigliatelo e conservatelo in cantina. Vi avverto che il bello di questi siroppi è la limpidezza e per ottenerla è bene abbondare nella fermentazione.